Senza l'auto oggi muori. Formicaio. Oh yeah, yeah. essere libero è un calvario. Scappar via dal formicaio. Ecco già sai rinunciare. L'uomo sai si sa adattare. Liberiarono gli indiani, quelli sciolti americani. Ma tu hai un'altra sorte, sei fuori di una corte.